ma va suora, perché mi ritirate 10, gente di 13-14 anni, e noi a quell'età ti chiamavamo dalla finestra perché iniziava il carosello e non eri già a casa, è capace che ne buscavi pure. Come ho avuto l'educazione io, mio padre battava lo sguardo, mio padre non ci ha mai picchiato, forse qualche schiaffetto, ma neanche un allungamento di mano, ma battava lo sguardo. Io ho avuto un'educazione molto molto severa, però rispetto, adesso vedi, è tutto diverso, cioè io ho mie figlie, già sono abbastanza tranquille, ma mio padre quando molte volte vedono come reagiscono, dice cacchio, ai tempi miei tu queste cose non le avresti fatte, dice non esisteva, adesso purtroppo devi anche tollerare un pochettino, però ci sono certi casi che tu vedi i genitori, cacchio, ragazzi di 20 anni che si girano e picchiano anche i genitori. A volte li uccidono, è solo là che magari adesso dicono di ristrettezza, gente brava, gente cosa, non sentito nulla, e il figlio è ammazzato tutti e due. Sono casi tristi, casi, cioè non tutti sono matti, più che altro sono presi da questa cosa dell'apparire, del... però cioè, le cose si guadagnano, io ripeto, io conosco moltissimi ragazzi che hanno iniziato l'università e adesso veramente hanno fatto una carriera splendida, ma prima facevamo di tutto e hanno iniziato la gavetta ma così anche, come mi raccontano anche altri ragazzi che l'hanno incanalato in un certo coso e adesso sono fuori a fare il comandante di nave mercantile, insomma molti escono molto bene, sono anche invidiati, però insomma hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco. Non lo so, c'entra anche molte volte la fortuna, le amicizie, il coso, la debolezza della persona, perché se uno non è debole, c'ha carattere, personalità, molte volte non si fa coinvolgere, però molti ragazzi se si fanno coinvolgere non hanno la forza di reagire, cercano sempre di mettersi in evidenza, come hai detto tu, ma quello ritorna a mezzanotte, perché a me mi fa rientrare alle 10, non pensano che sia un coso protettivo, no, la vedono come un segno di coso, di inferiorità rispetto agli altri. Questo è brutto, purtroppo è così. Ok, dai, vediamo un po' su 10 se deve orientare qualcuno, avanti se c'è qualcuno, se no riprendi tu Gianfranco. No, c'è una propagazione separata da questi due canali. Non ho capito, una propagazione? Una propagazione estesa, un po' verso l'alto e un po' verso il basso, però qua c'è una specie di buco praticamente in cui ce n'è un po' di meno. Ma da oggi rispetto agli altri giorni me l'hai fatto notare tu, cioè il QRM è più basso, perché gli altri giorni cacchio c'avevo il QRM a 8, 7, 8, adesso siamo intorno a 6. Infatti, ma io, guardati, io c'ho un'ambizione, un'ambizione piccola, veramente piccola, che è quella di riuscire ad andare da Ernesto a mangiarmi un bel gelato. Chissà se sta, io penso di sì, che stia aprendo comunque, però chissà quanta gente ci sarà. No, è aperto Ernesto, te lo dico perché sono andato due o tre settimane, adesso mi ricordo, non c'era tantissima gente, ti dico, sono andato di domenica, fatto due persone prima di me di fila, ma sono passato ieri, non so se c'era molta gente, perché ieri c'è Patamona, c'era il mondo, ho visto un video, me l'hanno mandato, ma era pieno di gente. No, per adesso finché non c'ho la sicurezza che siamo tranquilli, se vedo gente me ne scappo, ecco. No, ma a parte che a me gli assembramenti non mi piacciono a prescindere, adesso mi piacciono ancora di meno, perché no, sono di norma sono solitario, ecco. Allora Robè, ma non stai facendo niente di tecnico, di qualche novità, anche tu tagli l'erba. No, guarda, ti devo dire, ho cambiato la disposizione della stazione, adesso l'ho fatta più funzionale, ho cambiato da una parete all'altra. Io c'ho, grazie a Dio, la casa grande, c'ho un po' di spazio, c'ho un salone, diciamo, una sala dedicata alle radio, ai divertimenti, diciamo, divertimenti di radio, e poi c'ho altri tipi di divertimenti, parliamo di musica, diciamo, di ascolto musica, eccetera, eccetera. E abbiamo sistemato, ottimizzato la stanza, poi ho tante radio, tante cose, tanti ripiani e tante attrezzature. L'ho ottimizzata, ho fatto un bel lavoro, soprattutto sono stato, ti dico, 5 giorni lavorando sulla cosa, soprattutto sul cablaggio, eccetera, perché ho fatto in modo tutti i fili, tutte le cose, ci sono decine di radio, analizzatori, frequenzimetri, di tutto di più, misuratori di campo, analizzatori di specchio, tutto e più. Ed è un problema gestire tutta questa roba qua. Erano un po' attorcigliati, fino allora ho fatto in modo che ci sia tutto, quasi, cioè, tutte le antenne separate, tutti i cavi, e non ho ancora terminato perché adesso devo passare, devo mettere il relè coassiale su per commutare le altre antenne, devo mettere un'altra antenna minimo, forse non, per non dire due, per il momento una, e per cui ci saranno anche degli altri lavoretti da fare. Già tutto predisposto per il rotore, quello ce l'avevo già da prima, però più ne hai di spazio e più ne vuoi, infatti adesso ne vorrei ancora di più, però per il momento va più che bene. Ho ottimizzato tutta la stazione, magari ho tolto qualcosina che utilizzavo meno, l'ho tirata via, perché tanto è inutile avere due o tre ricevitori, ne ho lasciato due, 7.000 quello professionale, più ci sono le radio dedicate per ogni banda di frequenza. L'ultimo è stato il famoso, mi ricordo. Che è questo? Presumibilmente, uno spagnolo. Sì, ci mi sembrava più dell'est, dalla tonalità. Avanti su canale 10, avanti, adelante. Sì, buonasera Manuel, qua operatore Roberto, Nord Sardegna, isola della Sardegna, QSL. Adesso si è abbassato il corso, prova tu un po' Gianfranco, l'ascolti, adesso prima era 9.10, poi c'è già 7, meno di 7, meno nel mezzo al QRM, avanti a te Gianfranco, l'ascolti meglio di me. No. Io, guarda, non mi sento neanche a balla, perché sono con subito 4.5. Quindi non c'ho proprio chance rispetto alla, cioè credo di non averne, poi sarà preparazione strana. No, avanti Emanuele, vabbè fregate, non mi hai mai detto, se lo vuoi dire naturalmente, che radio stai utilizzando, sono curioso, perché la radio è bellissima, bella pulita, sembra una telefonata, e a parte la potenza, il segnale ti dico che 9+20 a me arriva fortissimo, voglio capire che radio stai utilizzando, perché ancora non sono riuscito a capire. Guarda, è parente di quella verde che credo che hai visto. Hai presente quella verde che c'era a Claudio? Ah, verde, blu, non verde. No, poi ne avrà anche una verde. Comunque è di quelle, è anche di quelle della Celeste, può essere parente, è di quella classe. Però super moderna, con analizzatori di spettro e tutte quelle belle cose che lì. Ah, non è, io pensavo stessi utilizzando una radio militare di quel genere, tipo con le spalleggiabili o cose del genere. Sì, questa è spalleggiabile, è digitale, e poi cosa c'ha? C'è tutto il bambino ovviamente. Ed è un bel giocattolo, solo che come tutte queste cose che usano i militari escono con potenze ridicole, ma ieri addirittura ne ho visto in vendita una su cosa, su eBay, ed era molto bella, è molto, guarda la potenza, un watt. Ma come dimensione, è grande, è tipo più piccola di quella blu, che quel famoso 950 blu di quella radio, hai capito quella che sto parlando? Sì, sì, sì, è della sua famiglia, diciamo che la metà. E c'ha il display con l'analizzatore di spettro? Sì, ne ho anche altre due, però di diversa marca. ne ho anche altre due, cioè di diversa marca, di diversa grandezza, che sono abbastanza grandi, una è solo ricevente, e c'ha tutto, c'ha Bluetooth, come diavolo si chiama, wifi, presa di rete dietro, track. Ne ho due con questo sistema, un'altra invece essenzialmente dedicata alle ambe coste, poi ho neanche una classica che ha vocazione navale, che quella è veramente più brutta, anche se non c'ha tutti questi input in più, è molto più semplice, c'ha due belle manopolone, una per i canali, perché quelle vanno tre canali, e una per un'altra manopolona per il volume. Bellissima, però funziona veramente bene per essere una radio classica. Questa è un sintonia continua o canalizzata, questa è stata utilizzata? Entrambi. Ok, cosa fa? 0,30 o sale di più? No, fai pure da, diciamo, da 30 a fino a quasi 500, credo. O giù di lì, comunque in quei parametri lì. C'è anche sistemi tipo DSP, riduzione di coso, di disturbi o ancora no? Tutto, regolazione tecnologia SDR, regolazione di filtri, regolazione delle, se tu c'è rumore tipo QRM, premi un tasto e te lo analizza e te lo toglie. Poi il GPS ovviamente, che funziona anche dall'interno, tutti i sistemi di GPS che attualmente sono in uso, poi cosa c'è? Ecco, non me lo ricordo neanche io, ecco, c'è anche l'USB, oltre anche alla presa di rete, e la wifi, quindi può anche comunicare tramite wifi. Un attimo, Gianfranco, sono al telefono. Ok. No, scusa Gianfra, era Gian Fabrizio, devo dargli roba, Fabrizio è un amico radioamatore. Sì, sì, lo conosco, un collega. No, io sto regolando una cosa. Ed è, ecco qua, trovato. Ah, è sempre lui. No, stavo ogni tanto, vado nel seguimento di alcuni aerei, così per curiosità, ma ce ne sono in giro parecchi, tanti, ce ne sono in giro tanti anche a quest'ora. Ieri ho fatto una controprova, stavo guardando la partita Milan-Juve, non so se l'hai vista, ma stavo guardando, poi a un certo punto durante la telecronaca si sente un aereo sopra la cosa, sopra lo stadio Allianz Stadium, quello di Torino, proprio un aereo, che aereo, sembrava un turboelica questo qui, infatti sono andato subito flight radar 24, adesso a vedere se c'è in tempo reale, guardando sopra il coso, che aereo è quello, già lo so che è in tempo reale, è bellissimo perché magari non sarà di quelli professionali che puoi vedere tutto, però diciamo gli aerei di linea li vede, li identifica, infatti è passato questo aereo e stava andando da Torino a Barcellona ieri, proprio durante la partita verso le 10, no, interessante perché poi ci sono le opzioni che io non le avevo mai viste, dove ti dice altre informazioni sull'aereo, oltre che la fotografia, la rotta, ma ti arriva sino al momento d'atterraggio, tu lo vedi sulla pista quando ingrandisci, sicuramente l'avrai visto pure tu, stai arrivando sulla pista quando sei atterrato e stai rullando per arrivare all'aerostazione, proprio sino all'ultimo pezzettino che si ferma. Sì, no, non so se l'ho fatto, poi anche c'è la possibilità di entrare in cabina e vedere il paesaggio da lì, ecco, quindi vedi quello che più o meno vede l'aereo, se ruota, se tira un po' sul flap, ecco le cose lì. Sì, l'ho visto quando la cabina in 3D ti fa vedere la cosa, no, è interessante, è un bel programmino quello lì, anche se certe volte certe cose non le puoi vedere, ti passa qualche aereo di quelli che non puoi identificare e vengono, non lo vedi, diciamo, non ti dà nessuna indicazione, però vedi anche gli elicotteri eccetera, anche quello Marine Radar è abbastanza interessante, anche se è un po' limitato secondo me, non c'è tutto di lì, vedi qualcosa oltre certe misure che diciamo misure non troppo grandi non le vedi, devi avere almeno 20-25 metri, diciamo, ma che non sia una nave, diciamo, fino a 21 metri sono imbarcazioni, diciamo meno di 21 metri e qualche yacht che se lo mette questo transponder, però anche quello è abbastanza interessante. No, quello della Flyradar 24 è bellino, è simpatico, vedi, l'altro giorno è diventata mia figlia da Milano, ho visto esattamente quando è partita, mi sono incamminato perché molte volte ho visto quando è partita, tanto ci mette un'oretta, piano piano sono arrivato e dopo 5 minuti è arrivato l'aereo, sono arrivato in contemporanea con l'aereo, così non sai più a fare attesa, ma ho detto ma è partita prima l'aereo, sì è partito un po' prima, infatti doveva arrivare a un certo orario, è arrivato 10 minuti prima. Perché a volte guadagnano accelerando poco, quando hanno fretta hanno fame, piloti. Sì, sono programmi di libero uso, quindi non costituiscono, ma vedi tantissimi aerei militari, ed è particolarmente libero, ecco, aperto, se infatti tu scendi e vai verso altri paesi, l'Europa ne fa vedere tantissimi, ma quando inizi a scendere verso l'Africa vedi come sciamano, no? Perché di lì è abbastanza vietato. Posso dire addirittura che in questo momento prima erano in tre, adesso credo che sia uno che è su Lecce, ed è un caccia d'addestramento con nuovo dovrebbe essere l'armacchi, l'armacchi d'addestramento, questo ha tutto anche il nome, che hanno fatto veramente aerolinea Aermacchi T346A, ed è un aereo addestratore che veramente è una primizia italiana che anche gli americani l'hanno preso subito. Sopra di lei, certo, sto guardando, infatti è un caccia questo che si vede, vediamo se me lo fa vedere. Sì, lo vedo anche io, sopra Cavallino, quella zona lì. Sì, infatti è l'addestramento, ma anzi no, sono due, vedi che è uno sotto l'altro, erano appaiati. Sì, ce ne sono due, sono una zona industriale, copertina, eccetera. Questo caccia, ma non è italiano, aspetta, è una linea Aermacchi, sì, T346, no, italiano, sembrava con identificazione, ho detto, che cosa ci fa un aereo straniero in Italia? Mi sembrava con i simboli russi, invece è italiano, un aereo codice di registrazione, eccetera, eccetera. Non l'avevo mai visto, la prima volta che ti dico che vedo un aereo militare, non mi era mai capitato. Sì, quelli lì appartengono alla scuola, altro, credo che abbiamo fatto vedere in televisione, però era tardi, l'hanno stati questi servizi alle 11:30 quasi, mezzanotte, ed era la scuola di addestramento per il volo subsonico e tattico da caccia, e da lì i piloti imparano diciamo tutte le tecniche di addestramento per il combattimento aereo. È un aereo terribile, veramente super maneggevole, insomma è una cosa, è la testatrice della scuola che c'è lì a Lecce, adesso non mi viene il nome, il comandante addestratore diciamo è una donna, ma di quelle donne veramente un mezzo cranio, perché a diventare istruttore di aereo da caccia è veramente una cosa particolare. Scusatemi, non ho fatto telefonata, scusate. Oggi è la giornata delle telefonate. No, la prima volta mi capita, forse perché è un aereo di addestramento, per quello viene identificato. Se fosse un aereo veramente militare, diciamo, da guerra, non so se me l'avessero fatto, me l'avevo fatto vedere. Sì, guarda, ieri ce n'erano due che erano della base. Ma di quella base che c'è su in Veneto, lì. Adesso non mi viene il nome, erano due da caccia americani, che c'è la base NATO, mannaggia non mi viene il nome, comunque erano americani. Poi ieri invece ne sono passati due incolonnati che erano C-130 dalla base che passano tutti sulla Sardegna, tra l'altro, provenienti dalla base di Rota, che è tra Spagna e Portogallo, che è una base della Marina americana anche, tra l'altro. E sono passati, erano in tutto tre, tutti e tre, due vicini e uno un pochettino più distanziato, tutti quanti erano C-130. Aviano la base, probabilmente, stai dicendo? Sì, Aviano, anche se c'è sempre molto traffico anche su Sigonella, ma sono tutti aerei grossi da trasporto, perché a Sigonella c'è anche il coso di trasporto per la Marina americana, no? Sì, no, C-130 mi è capitato di vedere, però caccia proprio tipo Eurofighter, cose così, non mi è mai capitato, non so neanche se si possono vedere con flight radar, non so se ci abbiano il transponder o sono codificati vari per non farci vedere. Ma dipende, è sempre un pulsante da accendere o spegnere, anche l'elicottero che adesso vedi, poi passa esattamente sopra casa mia sempre, che è dell'Air Green, sempre del 118, che sta arrivando dalla Maddalena, da quelle zone. Ed è, tra l'altro c'è anche il famoso, quello che forse senti anche tu spesso, c'è anche il Piaggio che sta arrivando dalla Marina, quello fa un macello, mentre invece dentro è silenziosissimo, è un salotto, te lo immagini? Il coso, il P-180 della Piaggio, sì, quello è un aereo tutto particolare, tutto strano, con i motori al contrario, tutto fatto in un modo, l'ho visto, lo fanno anche la versione VIP, diciamo, per il tipo Piper, dai, per il coso, per i ricchi che se lo possono permettere, un aereo particolare quello lì. No, ti sto guardando, c'è un bel di traffico, di questo cos'è militare, questo cos'è? Un Piaggio 180, cos'è della Marina questo? Sì, è della Marina. Poi c'è quello sopra Castelsardo, con l'elicottero di coso, non è il classico elicottero, quello della protezione civile, quello che esce quasi tutti i giorni, poi quando ci sono incidenti stradali o soccorsi. No, è del 118, del 118 di Olbia, che probabilmente sta andando a fare i Sassari. Poi ci abbiamo anche, mentre DT2, che è quello che ha Alghero, quello di sta, dovrebbe essere il suo Rizzano in questo momento. Sì, ce n'è un altro, quello più piccolo è il suo Rizzano. No, molte volte mi guardo i tragitti intercontinentali, quando vedo partito da 6 ore e gliene mancano altre 8 a arrivare, dico, cazzo, già ne gara, 15 ore di volo, cosa vuol dire stare 15 ore? Ma quelli almeno stanno bene. Fatelo su un C-130 e me ne dà la risposta. Guarda, io in aereo, vabbè, non ho fatto voli intercontinentali, ho fatto voli internazionali, però ti posso dire, io dopo un'ora mi stanco troppo, mi fanno male le gambe, perché c'è un bel raccolto. Questi voli intercontinentali non l'ho mai fatto, per dire, farti dire New York, Roma, New York, cose del genere, non ne ho mai fatto. Ma quelli che ti fanno, per dire, New York, come cavolo si chiama, Seoul, che sono 15 ore di aereo, senza scalo, alla fine dico, cazzo, mica te ne scendono le gambe. A stare 15 ore, tu magari ti riposi un po', magari ti alzi 5 minuti, ma cacchio, 15 ore in aereo, con la pressione, anche se è pressurizzato e tutto quanto, alla fine ne esci scoppiato. Sì, vabbè, ma guarda, quelli che ci sono qua, che partono da qua, che possono andare a Milano, Roma, eccetera, se hai notato, sono delle cose da folli, veramente, guarda, sembra essere un pollo. È stretto, io immagino una persona un pochettino sovrappeso di lì è veramente in difficoltà, perché c'è il sedile di quello là, poi certi se lo regolano per addormentarsi, deve essere sulle gambe, secondo me sono troppo da avvicinarsi. Io invece ho volato anche sugli ATR, cavolo, gli ATR sì che sono veramente, hanno un divano, vero e proprio, quelli sì che le gambe le puoi allungare come ti pare ti piace. Guarda, io ti dico una cosa, io dovevo prendere due aerei quando andavo, adesso diciamo sarò un annetto, forse se non vado più di più di un anno, dai, perché c'era il Covid, me, che ci viaggiavo spesso. Prendevo molte volte le MD-80, allora c'era la Blu Panorama che faceva, c'aveva la convenzione con Alghero, faceva Alghero Milano e Alghero Roma, che poi da Roma prendevo un altro aereo internazionale. E lo stesso aereo, le MD-80, uno era Blu Panorama, l'altro era dell'Italia, identici. Tu dovevi vedere quello di Blu Panorama per guadagnare posto, forse una fila di sedili, li hanno ravvicinati, io non riuscivo a appoggiare le ginocchia davanti, non sono altissimo, io sono alto 1,78 m, non sono uno di quelli di 2 metri, non so come farebbe uno che è alto oltre 1,85 m a starci dentro con l'aereo. Un aereo distrutto, tocchi una cosa, me ne è sceso un pezzo del pannello, l'hai visto tu, ci sono gli oblò e ci sono le cornici, ne caggio due in terra, una cosa del genere. Tocco un altro affare, si ribalta e vedo pezzi in terra, ma che cacchio di aereo hanno preso? Erano i vecchi aerei che aveva l'Alitalia, erano riverniciati di blu, fatta dura una compagnia rumena, infatti è durata poco. Poi lo stesso aereo identico, però l'Alitalia li guadagnava un pochettino di spazio e stavi un pochettino comodo, ma anche l'Alitalia era stretto, parliamo di aerei da 80 posti, 80-90 posti, era una gaggata. Io non so, infatti ho detto, se uno è alto di quei giocatori di basket, come fanno a sedersi se c'è vicino al finestrino? È impossibile, non ci stai. Infatti è tempesta, mai trovato me. Io ho trovato tempesta, sì, nel senso che non siamo potuti atterrare, da Alghero siamo atterrati ad Alghero, a Ulbia, siamo stati mezz'ora, c'era un vento, parlo di 20 anni fa, è un vento allucinante, alla fine siamo stati più di mezz'ora girando intorno a Ulbia, aspettando il momento che calasse il tempo, il vento, perché non si poteva atterrare, il coso, ha detto preparatevi, è un atterraggio difficoltoso, e poi siamo atterrati tranquilli, mentre 2 anni fa, rientrandone sopra Roma, io una delle poche volte che proprio ho visto l'aereo in difficoltà, normalmente i problemi ce l'abbiamo sopra la Sardegna, sopra Roma, uscendo da Roma, infatti attenzione, ci sono delle turbolenze, io non ho mai visto un aereo dimenarsi così tanto come una volta che 2 anni fa da Roma, sopra di Roma, spostandosi verso il mare, dopo Ostia, dai, Fiumicino, quelle cose lì, c'erano queste perturbazioni allucinanti, vedevi l'aereo, ho detto buh. Poi quando siamo arrivati ad Alghero, siccome sapevo che c'era un vento forte, ad Alghero c'hanno due possibilità di atterrare in un senso o nell'altro, ho detto cacchio, oggi ci facciamo male, meno male poi è stato un atterraggio bello, ho detto complimenti al pilota, è riuscito a gestirlo, ma tu devi vedere come oscillava l'aereo, le ali ci giravano i 30-40 gradi, era una cosa mai vista, cioè vedevi questo aereo ballare da una parte all'altra, il pezzo di Roma era buh, ma è successo una cosa del genere, neanche quella volta che abbiamo fatto l'atterraggio a Ulbia perché non si poteva atterrare ad Alghero, e poi un'altra volta con la TR-42 andando a Genova. Sentivi le ali, tric, ho detto qua si stacca qualche ala, però era un aereo turboidica, quello lì piccolino, non è che potevi prendere, ma quando vedi un aereo grande, tipo le MD-80, e lo vedi oscillare lateralmente, io ho detto cacchio, ma una cosa un po' impressionante, non sono tipo che si spaventa, perché io sono fatalista, dico tanto se devi morire già muri comunque, anche sotto casa senza stare in aereo, però ti posso dire 2 anni fa ho visto l'aereo molto molto in difficoltà. Sì, avanti. Buonasera a tutti. Io ho avuto esperienza e l'atterraggio non è stato dei migliori. Praticamente stavamo tornando da Pisa con la Ryanair e praticamente stava atterrando, ha detto come il consueto, ci ha detto le luci di cortesia, eccetera, eccetera. Stavo aspettando un atterraggio, poi di colpo vediamo un aereo che sale di quota di nuovo e sentiva tu come se non sganciasse il carrello, tutti cagati sotto erano, si guardavano tutti in faccia con gli occhi sbarrati per 2 o 3 volte, poi ha fatto questo atterraggio, ci ha dato un colpo, di solito quando atterrano gli applaudono, questo ci ha dato un colpo che mi è arrivato il cuore in gola. Beh, adesso vi racconto una cosa, scusa Giacomo un attimo, posso? Sì, vai. Allora, stiamo parlando tanti anni fa, stiamo parlando una 30 anni fa, mia sorella era piccolina con mia mamma, mia zia, eccetera, stavano andando a Lourdes e hanno fatto l'atterraggio di emergenza perché sono esplosi 2 oblò, erano in quota loro, hanno tirato tirato l'ossigeno, sai quanta gente si è fatta male, nel senso ricoverata, loro sono riusciti a rientrare, ha fatto un atterraggio di emergenza perché sono esplosi due, è pressurizzato l'aereo, sono esplosi, non sai quanta gente ci ha rimesso i timpani, una cosa allucinante, infatti poi li hanno portati all'ospedale, eccetera, eccetera, la sorella era piccolina, si sono cagati sotto, tutte le immagini, tipo quando vedi un film che esplodono gli oblò, sono riusciti a rientrare e hanno fatto un atterraggio di emergenza. Non è capitato, è capitato sulla Bologna, Bologna Alghero, con ATR, e tra l'altro non era neanche tanto pieno. Da Bologna appena preso quota è iniziato questa tempesta, questo vento forte, la pioggia che batteva, sentiva tum tum tum tum tum tum, sembrano dei proiettili. Ma il più bello, già c'era la gente bianca, no? C'era, credo, a bordo, diciamo, i giocatori di pallacanestro da Dinamo, ed erano bianchi, io ne avevo uno davanti perché era comodissimo l'aereo, c'aveva i divani, la TR molto, molto comodo, e c'era questo ragazzo che non si muoveva, era bianco, dicevo, ma fino a che questo non sia morto. E siamo arrivati nelle coste della Sardegna, inizia questa tempesta ancora peggio, che non te lo dico, c'era l'allenatore che si è messo a pregare, c'è qui il silenzio, il pilota non c'è, stiamo avvicinando alla Sardegna e atterreremo sul lato contrario per questioni meteo. È andato a fare la curva sull'isola piana, no? Di lì di fuori mi è arrivato questo colpo che l'aereo ha tutto vibrato, insomma, questa è la volta buona che ci cadiamo in mare, un colpo che quelli lì, guarda, a momenti cadono a terra, poi atterrato e c'è la lotta, se te lo ricordi, roba, c'era sempre un'ossa sola, no, in quegli aerei, e quando siamo scesi hanno detto, adesso non mi ricordo che compagnia era, grazie per aver viaggiato con noi, alla prossima, ma neanche se mi pagano. Scusa già, ho ben sentito comunque, no, io mi ricordo qualche anno fa, una decina d'anni fa, siamo andati a Coso, a Bologna, e fatto San Pagliaro Bologna, c'era questo tipo che fa lo stesso lavoro mio, non ne voleva sentire minimamente partire in aereo, cagato sotto, il padre è giovane questo ragazzo, di Sorso era questo qua, e il padre cercava, no, non era una riunione importante, diciamo, una cosa era inerente al nostro lavoro, nulla, non ne voleva sentire, alla fine cacchio, a forza ce l'ha fatto entrare il figlio, il padre, proprio a forza, perché lui non voleva partire, cagato sotto, il primo volo che voleva, proprio è entrato a forza in aereo, piano piano, tu devi vedere, è stato tutto il volo, è andato a cagato, questo qua, stringendosi, proprio quando vedevano terrore, al ritorno, vera, chi su vento, lo vedi sentire piangendo, pregando, questo qua, tutti i santi, era cagato sotto, fate tanto, se dobbiamo morire, non te ne accorgi neanche, ho detto, ti sbatti a terra, esplode l'aereo, ti parte che c'è una morte veloce, ho detto che non sia di quelle che ti bruci piano piano, glielo diceva questo cagato sotto. Ok, vai già. Io sono un po' in tensione, la verità, quando vado in aereo, io preferisco la nave, quando vado in aereo sto un po' in tensione e mi voglio mettere sempre vicino allo globo per vedere il panorama, però sto in tensione tutto il viaggio, specialmente quando ci... Non sto facendo il radio. Casino. Cosa sta spingendo troppo il modulatore? Non sei uscito di radio già? Gianni? C'è ancora la portante, no? Ma è lui o che cosa? Perché prima era molto più forte di San Ghi. Lo passo a Gianni, Gianfra. C'è proprio un colpo allucinante. Sì. Gianni, non sei uscito di radio per un bel pezzo. Forse l'ho premuto male. Aspetta. Non so se l'avete capito. Guarda, adesso sto uscendo. Ho premuto male il tasto, dovrebbe essere. Gianni, sì, adesso stai uscendo. Allora, tu il mare forse non l'hai mai visto, il mare brutto. Io mi ricordo un anno, stavo parlando di una nave da crociera, crociera che veniva, faceva scalo a Porto Torres. La Napoleone è Bonaparte, una nave di quelle enormi che poi va a Barcellona e va al giro. Dovevamo partire alle 3 del pomeriggio d'estate, stavo parlando, dovevamo andare a Corsica, perché io la prendevo anche che fare il giro a Bonifacio, per comodità facevo Porto Torres a Iaccio, Porto Torres Propriano. Quell'anno c'era l'orario che come si chiama, la data che coincideva con il mio periodo di ferie, ho preso Porto Torres a Iaccio. Dovevamo partire alle 3 del pomeriggio, il comandante ha detto non si può partire, il mare è troppo agitato. Siamo partiti a 1 di notte, tu devi vedere cosa c'era di mare, ci siamo nascosti poi nel pezzettino della Zinale aspettando che stiamo parlando di una nave da crociera, non di Ghisci di Renia piccolina, una nave grossa, c'erano queste onde spaventose, la nave vedere un fucile in mezzo al mare. Ci hanno dato le cabine perché eravamo un tragitto che doveva durare 3 ore e mezzo, perché il portatore Zaiato sono 3 ore e mezzo di nave, tu devi vedere cosa c'era di mare il giorno. E poi un'altra volta il mare, proprio per cui quando c'è mare vuoi avere la porta aerea, io ho visto la porta aerea di Nimitz in difficoltà nell'oceano, per cui ci devi morire, la tua nave fa la fine del topo, ed è anche peggio se c'è difficoltà. Io ho visto una nave da crociera quando c'era un ciclone al largo della Sardegna verso Cagliari, una nave da crociera spagnola, se tu vedi questa nave ne usciva dall'acqua, le eliche uscivano dall'acqua e la prua, il bulbo della prua usciva dall'acqua, si stava a capovolgere, c'erano gli elicotteri militari pronti a intervenire per prendere i naufraghi. Tu guarda cosa ha fatto il mare a quella giornata, hanno trovato il tornado, un tornado al largo di Cagliari a 50 miglia, è durato 24 ore il viaggio da, non mi ricordo se era da Algerio, da Rabat, non mi ricordo da dove, da un paese africano, 24 ore, tu devi come si è fatta la nave dentro e la gente, i feriti che c'erano, per cui se sei in nave e c'è mare è brutto lo stesso. Di nuovo a te Gianfranco. Sì, sì, guarda, a me è capitato un'esperienza proprio brutta, il comandante lì è stato anche incosciente, dovevamo partire con l'auto di servizio a Roma per andare in un certo ministero e siamo passati al Golfo Aranci, no? Che l'andata in macchina, ho detto, tutti questi segnali per terra non sono un buon segno, ho detto, mi sa che ci conviene trovarci un albergo lì o a Olbia o a Golfo Aranci, tanto la nave non parte. Siamo arrivati al molo, infatti nave non se ne vedeva, quindi eravamo lì. E poi sono dopo qualche ora ti vediamo questo fatto arrivare, a quanto ce l'ha fatta ad ancorare, perché c'era a mettere gli ormeggi, perché la nave andava a destra, a sinistra, doveva entrare anche il treno dentro. Comunque fatto sta, alla fine è entrato tutto, c'è entrata la macchina eccetera eccetera. Beh, ti dico una cosa, appena uscito da Golfo Aranci inizia a prendere questa sconsolata, che questa nave per tutta la notte andava e scendeva, sentivi l'acqua, e noi eravamo nella cabina in alto, sentivi l'acqua che andava fin sopra i fumaioli, ho detto questa si capotta la nave, o si sfonda il portellone, o chissà cosa succede, perché le botte che sentivi, guarda, l'indomani mattina che siamo arrivati a Civitavecchia c'erano i camionisti che viaggiano, insomma, no, la prendono ogni settimana praticamente, anche 2 volte alla settimana, bianchi, hanno detto in tanti anni che noi viaggiamo una cosa del genere, non è mai capitato, questo comandante è pazzo, veramente è pazzo. Ma guarda, le ondate, io ho trovato la macchina, figurati, in condizioni che non ti dico, piena di sale, che non riuscivo neanche a toglierlo, per carità, guarda, un'esperienza tremenda. Vai già. Sì, a voi mi è successo in nave, a me mi è successo per la testa matta di un amico mio, siamo usciti con una pilottina di mattina verso l'Issita, andare a pescare, da Alghero, avevamo 2 motori da 80 cavalli, era una bella pilottina, una sessa era, Romeo, non so se tu le conosci. E tutti quanti i pescatori stavano orientando, ho detto guarda che stanno orientando tutti i pescatori, ci facevano di mano. E lui dice ma no, ci stanno salutando, ma cosa stanno salutando? Ci stanno dicendo di tornare indietro, forse c'è il mare. No, più vai avanti e più non ce n'è. Beh, fatto sta che andiamo al largo, Mimosa, andiamo verso Mosa al largo, fate vedere questa tempesta, pioggia, vento, le onde che saltavano sulla barca. Lui era mannino di marino e poi vedo seguto sotto, e io non avevo mai guidato una barca, Robert, scrivimi, non avevo mai guidato un gommone. Mi sono messo alla guida, cazzo, questa barca si staccava dal mare, cazzo, pugna onda, cazzo, prendevo le onde di sbieco, no? Perché l'avevo sentito dire che prendendo le di sbieco va meglio, capito? Se le prendi di più capi di caputà. E fatto sta che sono riuscito ad arrivare in porto, c'erano tutti i pescatori aspettando, cazzo. C'erano tutti con voi siete pazzi, cazzo, tutti guardano col cannocchiale, eravamo l'unica barca in tutto il mare. Non dirlo a lui. No, io qualche esperienza ce l'ho, anche se adesso la barca mia è in secca, ma col gommone eravamo abbastanza giovani, diciamo, una greppa qui da Santa Teresa, e io che andiamo in Corsica, ora ci mettiamo sotto, andiamo di lì, stavamo uscendo, quando stavamo uscendo c'erano i pescatori che entrano, dice, ma dove state andando? Ma vedete, lo vedi quello scuglio, c'è uno scuglio fuori, non so come lo chiamano, fuori di Santa Teresa al largo con la boa luminosa, lo vedi, quando tu vedi le creste bianche, di lì vuol dire che il mare si sta alzando. Ah no, non si preoccupi, siamo andati sino alla Corsica, abbiamo fatto le isole, tutte Santa Maria, Budelli, Spa, tutto qua. Ho detto dai, giriamo, anziché andare in Corsica, tanto non ce ne frega niente, andiamo verso Rena Maggiore, siamo andati di lì, ci siamo messi ridossati, abbiamo mangiato, siamo andati tranquilli, tutto qua. E vedevo tutte le barche rientrare, questo abbiamo mangiato di lì, siamo scesi a riva, eccetera. Rientrando vedevamo da lontano le barche, tutte in barche grosse, rientrando, ma che cacchio sta succedendo qua? Ma non ci abbiamo fatto caso. Poi da lontano vediamo che un gommone si sta, si è mollato un gommone perché l'abbiamo ancorati a largo, perché arriva non si poteva arrivare, si scaccia un gommone, subito siamo andati a prenderlo, a recuperarlo, tu devi vedere il mare a rientrare, una cosa mai vista, una cosa spaventata, mi si rompe l'asse del comando dello stesso del gommone, del motore, tu non hai idea cosa è stato per guidare, le ragazze si mettevano a piangere dalle ondate che arrivavano, dico, puoi guidare a barra, quando tu c'hai un gommone con la scatola guida, diciamo, con i comandi, con la timoneria a comando, era una battaglia, una cosa, il gommone mio teneva male, non era una cagata, però tu vedevi le ondate, ti arrivavano, ti allagavi, arrivo quasi all'imboccatura di Santa Teresa, poche miglia vicino, boom, si spegne il motore senza benzina, cacchio, come fai? Stavo andando a sbattere sugli scugli, perché ho detto, la benzina ce l'avevo, se batto io di ricambio, perché ce li ho sempre pronti, ho detto, qua, tra prendere e fare, alla fine c'era uno, mi ha rumeucchiato e mi ha portato dentro, ho detto, mai più uscire col mare così. Poi te ne succedono tutti i colori, quando devi affrontare questi tipi di mare qua te ne succedono tutti i colori. Io arrivato al porto, non avevo mai ormeggiato, l'ho chiamato, ho detto, io esci fuori, ho tolto fuori quei sassicciuni per non sbattersi alle barche, però non avevo mai ormeggiato la barca, poi anche grandetta, quella sua c'ha la gabbina, c'è tutto quanto, si può mangiare, c'aveva il tendarino, tutto quanto. E alla fine ci tutto, tu butto, cazzo, è riuscito a ormeggiarlo, meno male. Un colpo alla barca, un colpo alla barca, quando c'avevano quei sassicciuri per non sbattere, cazzo, c'erano tutti i colori che pescato, voi siete matti, ma di dove siete? E lui gli ha detto, di Anela solo, perché? E allora tu devi andare in montagna, non in mare, gli ha detto questo pescatore. Lo so, mare io lo rispetto tanto, io vedo tanta gente incompetente che tutta la vedi girare e dici ma cacchio fai a uscire, la gente è proprio ragazzo, ti affitta nei comuni, le cose, io ho un po' di esperienza perché sono ragazzino, la patente ce l'ho da 30 anni, non è solo questo di patente, però quando ci vivi col mare, io da quando ero ragazzo che vado in giro con barche e comuni, la volta proprio dove mi sono cagato sotto, ho detto ci facciamo male passando, costeggiando la diga foranea del Porto Torre. Cioè non bisogna mai passare lungo la diga, perché c'è una risacca spaventosa, ho detto buh, prima di uscirne fuori, perché quando c'è onda tu l'affronti, vai al mascone, si chiama, parli leggermente decentrato di 45 gradi, riesci un po' a prenderla, a saltarla, diciamo, ma quando sei in mezzo alla risacca che sta ribollendo il mare, per uscire sono stato almeno 10 minuti cercando di contrastare il mare, perché vedevi questa risacca sbatteva sulla diga foranea, è un miglio, esattamente un miglio la diga foranea, teva di lì e poi ti rigirava, non avevi modo di controllare, vedevi la barca si metteva di un fianco quasi a capottarsi, allora gli davi colpo di timone e accelerarmi per raddrizzare. Ho fatto 10 minuti in mezzo in balia del mare, ho detto oggi ci rimango, magari non affughi, già sai nuotare, però ho detto oggi si ribalta la barca, è una pilottina, non è una barchetta piccolina, ci avevi anche motore, però puoi avere il motore che ti piace, ma quando non riesci a governare perché sei in mezzo al ribollire delle acque non fai nulla. Infatti i veri pescatori dicono mai passare lungo la diga foranea o vicino ai porti, perché la diga foranea soprattutto non ha frangifluti, per cui è ancora peggio di lì, ed è un bel pericoloso. E tu vedi i ragazzi lì col gommone passano fiancheggiando di lì, roba di capottamenti, di nuovo a te Gianfranco. Sì, no, io mi ripartivo col gommone a uscire fuori dall'acqua. Quando uscivi fuori dall'acqua l'elica girava, sentivi no, quando c'era mare male formato, uscivi col gommone dall'acqua e poi quando cadeva sentivi boh, e quando eri in aria sentivi l'elica, il motore no, andava al massimo, e ci diale, un po' di coscienza, anche perché poi devi considerare che quando scende in acqua il gommone che è proprio fuori ti dà un colpo che ti può anche sbalzare fuori. Infatti ne sa qualcosa con la radio, la Yaesu che c'era in plancia, poveretta, già ne ha preso pochi di colpi, si sganciava anche e cadeva sul gavone, guarda, cosa allucinante. No, Mario, bisogna sempre rispettarlo e conoscere i limiti propri e soprattutto i limiti della imbarcazione, no, non c'è da scherzare. Infatti io sono molto prudente, poi quando uscivo con mie figlie sempre con i giubbotti di salvataggio, siccome la barca camminava anche e a me mi piaceva anche correre, sempre con i giubbotti di salvataggio, anche se sapevano nuotare, ossia che prendi un colpo, magari ti smatti, te ne salta fuori, ti smatti la testa, magari svieni in quel momento lì, non sai quanta gente c'è rimasta, per cui sempre tranquilli. Solo che tu vedi i ragazzi gli danno questo, adesso c'è il limite di 40 cavalli, 40 cavalli su un gomoncino di 4 metri 50, vai a 25 nudi e 25 nudi cammini parecchio, anche di più secondo che gomone, e te li vedi tirando il collo, correndo come scemi, senza nessuna cosa di soccorso, non si attaccano neanche il cavetto di emergenza, pigliano e camminano, si mettono a manetta saltando sopra le onde, ogni tanto ne perdi qualcuno e gli danno in mano questi gomi. Infatti io ho detto la patente secondo me dovrebbe essere obbligatoria dai 6 cavalli in su, come in Francia dopo i 6 cavalli c'è la patente, mentre qua in Italia se ne hai 40 cavalli che c'è un'arma, cioè un gommone un 4 metri o 4 metri 50 con un 40 cavalli è un'arma, perché è una cosa pericolosa, non sanno le leggi, le regole, camminano a fianco dove ci sono i bagnanti, se c'è qualche subudio ne passano sopra, cose allucinanti. Io vedo delle cose che rimangono a bocca aperta fino a quando non si scappa al morto. Avanti a te Gianfranco. E guarda, io invece devo stare attento quando uscivo dal porto, uscivo sempre piano piano, ma un giorno veramente mi ha fatto incazzare, ma questo imbecille era col boccaglio, col coso di lì all'uscita del porto, ma non ti rendi conto che qua entrano e escono l'abita e franciano e poi metti la gente nei guai, se vuoi morire vai dall'altra parte, affogati. Di tutti i colori se ne vedevano, guarda, poi la gente che ti passava vicino con le barche grandi, ma la distanza, le mezze, niente, guarda, non è solo avvicinante, per carità. Io tra l'altro uscivo anche di notte, mi ricordo che incontravo anche spesso un mio vicino anche di casa, che tra l'altro era anche radioamatore, e lui c'era la pilottina. Lui arrivava sempre tardi, intorno alle 7, e noi massimo ci trattenevamo fino a mezzanotte, qualcosa del genere. E lui rimaneva anche oltre, infatti lo saltavamo, andavamo, perché ci metteva più o meno dove eravamo noi. E comunque un umido, non ve ne dico niente, l'umido che c'è in mare, la notte è qualcosa di da farsi il bagno, guarda. Io mi ricordo sempre quando andavo a pescare al molo, c'era questa imbarcazione di vetro rigida, color celeste, azzurro, un azzurro, e con un motore sicuramente potente, truccato più che potente, l'avevano truccato loro. Entravano in porta a manettone, tu pescando di notte, dovevi tirare subito le canne perché come entravano loro non ce n'era. Erano due ragazzini che rientravano di notte verso manovrano per mezzo così, a manettone, senza luci dell'imbarcazione e sparato. Se tu hai frequentato il Porto Torres già, probabilmente hai notato una specie di motoscafo, quelli brutti antichi che hanno il parabrezza piccolino, tutto nero, questo era tutto verniciato di nero, anche posso accedere tutto di nero, una barca vecchia, un motoscafino era stato 4 metri, 3,80 metri, con un motore 25 cavalli, tutto nero, verniciato di nero, questo usciva la notte, era un bracconiere, andava a cercare palamiti, a furarne il pesce e tutto quanto, le nasse, e tu lo vedevi tutto nero. Non ti usciva questo, non so se poi l'hanno beccato, perché lo tentava la capitaneria, cercava di tentare, lui usciva piano piano e poi tu andava a cercare le cose. Allora, un'organizzazione del genere io l'ho vista a Pescara, dove c'era il fornitore di fronte al passetto lì. È arrivato il tipo in macchina, è arrivato il gommone, in fretta e fretta hanno scaricato il pesce dentro la macchina, il gommone è ripartito e è andato verso il fuori, deve essere che si sono telefonati, hanno infurato il pesce da Gachiubo, da qualche parametro, qualche cosa, e poi, ma il pesce è grosso, mi c'erano rate, sara, grigissima, tutta roba grossa. Non lo so, se questi poveracci lo fanno anche per vivere, per sopravvivere, però cacchio, devi stare attento, non ne passi sopra, con questa gente, se c'è una barca mari, la mia era abbastanza alta davanti, ma io ero terrorizzato la notte, perché poi quando c'è la, anche se illumini, non è che illumini bene, questi si nascondono nel buio, quando ci sono quelle giornate, cose, c'avevo il coso, io per farla planare la barca mia ci voleva, devi andare a 15 nudi, e quando stai andando a 15 nudi stai camminando, perché rimane molto appoppata. Poi la metti in planata e vedi, ma quando stai camminando intorno ai 10 nudi, davanti non vedi niente, devi stare col collo dritto dritto e sperare che non ci sia nessuno. Sai quanta gente c'è in mare la notte a Platamona quando si mettono a cercare calamari, gente che si mette a fare le bulentinare, cose del genere, e la maggior parte non hanno luci e devi stare con gli occhi aperti, se no ne schiacci qualcuno. Lo sai quante volte, oppure quando c'è la luna che riflette, che non ti fa vedere niente, cioè vedi, c'hai gli occhi da una parte abituati alla luce e dall'altra al buio, e ti manca come quando guardi una cosa, una luce troppo forte, ti diventi opaca la vista, e così capita. Infatti io ero sempre terrorizzato, ho detto qualche giorno ne schiacciamo a qualcuno. Vabbè, io ne ho visto di cose lì, pescando lì, poi facevo i cavoli miei, ma ne ho visto di gente di bracconaio, di cose del genere, io tirando riti, tagliate le riti e portate le navette sopra con tutti i pesci dentro. E vabbè, che dovevi fare, c'è sempre questa gente qua, e questa imbarcazione di Cattini era lo stesso di quelli che avevano un attimo, sicuramente entravano sparati, casa qua in porto non si entra così, capo, sparati, ti sto dicendo, ora sai, dovevi tirare fuori le canne perché se no ti prendevano la lente. Ma lo sai quanto è l'ingresso in porto? 3 nudi, non puoi superare i 3 nudi. Per me se la capitaneria non li aveva visti, però già ci stanno molto attenti. C'è qualcuno che vuole entrare avanti? Break, buonasera a tutti! Ciao Antonio, ben sentito in compagnia mia, di Gianni e di Gianfranco. Facciamo rilanciare a Gianfranco che era in stand-by. Avanti a te. Sì, ciao. Ciao Antonio, ben ascoltato. Io ne approfitto perché non mi avevo dato conto che era già così tardi, quindi vi saluto e me ne scappo a cena più di cosa che di fretta, più di fretta che di corsa. Rilancio tutto ad Antonio, dai. Buona serata a tutti, alle prossime, ciao ciao. Capo, salutone a te Gianfranco, ci sentiamo alle prossime, avanti già. E allora Antonio, ti saluto, io me ne sto andando, adesso è stata alle 8, io vado a portare il cane a quest'ora. Buonasera a tutti, mi ha fatto piacere questo alle prossime, dai. Salutoni, ciao. Ciao Gianfranco, ciao Gianni, e anche io un paio di minuti rimango, anche io tra poco vado a mangiare. Credo che Antonio dovresti ancora mangiare, tu sbagli, Antonio, normalmente a quest'ora vai a mangiare anche tu. Già mangiato oggi. Ah, già mangiato, oggi hai fatto prima, che ore sono? Non ho manco visto l'orario. Aspetta, guardo, le 19:57. Allora un paio di minuti rimango, dai. Normalmente verso le 8 ti viene il coso della fame, dai. Oggi non è che ne abbia tante, però ossia che mi venga troppo tardi, poi magari ti curi che ti rimane sullo stomaco. Ok, quindi è finito prima tu. Cappa, sì, oggi è finito un po' prima. Pure io quando scendevo a Porto Torres nelle nottate ne ho viste di belle cose, di tutti i più combinane. Mi stavo seguendo il quassello, anche se ero giù mangiando mi stavo seguendo. Non lo so, ma diciamo adesso col Covid sono stati un po' tolleranti, perché adesso basta che ce ne sono di meno, ma qualche anno fa ho visto delle contravvenzioni, ma lo sai che andai ieri, dove stavamo noi giù al mare, hai visto quando entrava la capitaneria, come arrivavi tu o quelli che fanno la pescata furba e poi si nascondono il pesce, appena arrivano loro tu sei sicuro che non guarda, lo sai quanta gente che c'è che guarda con i binocoli, c'hanno dei cannocchiali che sparano a centinaia e centinaia di metri, e tu dici tanto non mi vede, domani che non ti vede, e poi come arrivi, mi faccia vedere, apri il gabbone, anche a me è capitato, ma ero tranquillo, non avevo problemi, ma a un mese ho visto, ha preso contravvenzioni, che te lo nascondevi il pesce nel coso, nel gabbone nascosto, apri quel gabbone lì, fammi vedere cosa c'è sotto, lo sai, ti hanno fulminato, e sono denunce penali, se mai prendi pesci fuori misura o pesci che non puoi pescare, eccetera eccetera, tonnetti o cose così, lo sai, tanto di buone di muzza. Lo so già, chi voleva entrare? Ma l'ho detto già, a me già, scusa, tu, un attimino, mi hai sentito, stava parlando Gianni. Gianni di chi? Io ci sono all'ascolto, ma me ne sto andando, dai. Cappa, dai. No, ho detto, Antu, quando stava parlando Gianni e tu hai fischiato, ti ho detto, un attimino, mi hai sentito o Gianni era ancora più forte? No, ho schiacciato la portante e basta. Ehi, ho capito che hai stato solo un segno di bip, ho sentito, però io ti ho detto, un attimo, mi hai sentito o Gianni mi copriva quando ho detto un attimo? No, già, ti ho sentito di poco, ma ti ho sentito. No, per capire, perché sennò è inutile che parlo e ti dico un attimo e poi magari non mi intendi. Quello lì, ok, facciamo un attimino di bianco, vediamo se nel frattempo qualcuno vuole entrare, perché anche io tra pochissimo sto chiedendo, avanti sul 10 che vuole entrare. Mappa. E niente, che danno furato rovescio, scoperto, e sono successe risemi pure. E ti stavo raccontando, non so se hai sentito, di questa barca nera, una barchettina, proprio un motoscaffino, una cagattina, tutto verniciato di nero, senza luce né niente, motore, questi ci erano tutti di nascosto, piano piano, per non farsi sentire, ma notte tardi, perché noi uscivamo a volte a pescare con la barca, e vedevi che tu scendi piano piano di nascosto e andavo a cercare i parametri, perché lì è tutto pieno di parametri, bidoni, i filaccioni, gente che butta roba lì, andava, si faceva il giro e poi tornava. Non so quante volte ne abbiamo trovato di parametri buttati, tagliati e portati via. Se no c'è il proprietario biglia golpe. Ma non sarà succede che molte volte noi i parametri per dire li butti, fate posso dire, alle 10 di notte e ne li ritiri domani mattina. Non è che c'è tutta la notte li ridorri, gli suicida dopo che li avevano già buttati, verso mezzanotte, tu lo vedevi tutto e scia, si faceva il giro, si faceva il carico e poi domani mattina trovavi la sorpresa. Non so se l'hanno beccato perché lo stavano tentando, io avevo tanti amici di lì di Porto Torre, proprio Porto Torresi, pescatori a vedo, dice lo stiamo tentando, però devi avere la sicurezza, di dire di chi la ciappa e morubemo nuvunu. Poi non so se l'hanno trovato, io parlo tanti anni fa. E avevano ciappato tutti i dinni, in chi si so. Mancante, già, lì si sta ciappando di cudine. Allora, sono portatore di non scherzano, poi se li tocchi la roba loro, sulla roba di proprietà, guai, di lì, cazzo, ti rischi la pelle veramente. Vabbè, tu, io vado adesso, dai, grazie della piccola chiacchierata, dai, ci sentiamo un altro momento. Ciao, ciao, alle prossime. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao. Andiamo, andiamo, cash. Bello. Ci sentiamo dopo, va, prendimi. Hola, hola, hola. Hola, hola. Poi va meglio. Attenzione, canale 10, copiati Antonio Cacao. il key dell'antivirus, aspetta. Vai, non c'è problema. Bene, Vicente, ti va parecchio, è sempre spento. Sì, che ti ascolto bene. Sì, capo, no, già va bene, dai, lo facciamo andare pure a lui. Ok, vai, vai, lui, non c'è problema. Avanti. Mamma mia, sei tutto quanto strappato, sei. Cosa sei, cosa è successo? Abbassa ancora, ma sì, pro. Questo è un macchino vecchio, non mi ritengo che non lo uso, guarda adesso. No, è proprio difetto della radio. Aspetta un attimino, guarda se non basso, vabbè, ora tutto pulito. Ma come male sto uscendo? Stai strappando, io ti sento così. Guarda adesso. Sempre così. E forse vuole, ma da volte senza accenderlo. Da un po' di anni questo è spento. Dimmi una cosa, il segnale com'è? Con questo smitter c'è a fondo scala, sì. Ma qui sta funzionando di potenza? Sì, no, va bene, va. Ti stavo dicendo, e a te come mi senti con questa radio? Bene? Sì, qua c'è 9 più 30, è un vecchio patch, 23 canali, 40.